sospette lascerà il buio brillare intorno a te, ed il cielo leggero volare. Dormi, dormi, chiudi gli occhi, il vento placherà le sue mosse. Anche il fiume sai si fermerà per lasciare il sonno entrare, poi stendersi al tuo fianco e chiudere gli occhi suoi. E adesso dormi, dormi, dormi ed anche il sole dormirà. E adesso dormi, dormi, dormi ed anche il vento dormirà. Dormi, dormi, che domani prendere potrai e coi colori tanti mondi al muro appenderai, e i monti coi prati blu. Il sole sorride a faccia in giù, una strada che ti porta a casa ed un fiume che scorre leggero, ma e adesso dormi, dormi, dormi ed anche il sole dormirà. E adesso dormi, dormi, dormi ed anche il vento dormirà. E adesso dormi, dormi, dormi ed anche il sole.